adesso tutti concentrati, mettetevi comodi, è cominciato, l'attesa è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Alessandria come riparte con quanti uomini in velocità, Nico, il solito Nico. Marras chiede il passaggio, lo trova Marras, e il gol del vantaggio dell'Alessandria proprio con l'ex, con il giocatore cresciuto qui nelle file della società rossoblù. Una fede che il tempo non cancellerà. Attenzione ancora l'Alessandria, pericolosissima, e attenzione Boccalon alla palla del 2-1, il vantaggio ancora dell'Alessandria al nono minuto di questo secondo tempo supplementare. Esplode la gioia in panchina, sul campo e sugli spalti. Beh, bravi, bravissimi. 800240024, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie al dio del pallone, se ce n'è uno. Ci sono squadre come il Leicester, miracolo di artigianato di Claudio Ranieri, e come i grigi dell'Alessandria, che dopo il Palermo fanno lo scalpo anche al Genoa e vanno ai quarti di finale di Coppa Italia 80 anni dopo. Oggi aspettiamo l'avversario, la vincente tra Roma e Spezia. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, sarà bellissima. Abbiamo Angelo Gregucci, allenatore dell'Alessandria, cui facciamo un miliardo di complimenti. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno mister. Allora, ci racconta questa cavalcata ancora parziale. Prima il Palermo e poi il Genoa, in una partita che avete meritato di vincere, avete rischiato di perdere e poi è finita come sappiamo. È stata una bella serata per noi, perché abbiamo messo dentro una partita di calcio, secondo me, molti contenuti. Abbiamo giocato benino, abbiamo tenuto benino tatticamente e tecnicamente un avversario di due categorie sopra la nostra, e fino all'80esimo. Dopo si è rimasti in inferiorità, io avevo già fatto i tre cambi, e un ragazzo, un mio ragazzo Manfrin, ha dovuto abbandonare per infortunio. Siamo rimasti in inferiorità numerica. Abbiamo preso gol al terzo minuto di recupero, quindi un altro toro in pancia. Tempi supplementari scommettevano pochissimi sulla nostra vittoria, mentre i ragazzi sono stati straordinari. Hanno lì buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno demandato al dettaglio tattico importanze relative e hanno tirato fuori attributi, cuore. Avevo gente con i crampi in ogni angolo del campo, quindi lì avevano buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno meritato, secondo me, una serata leggendaria, certo, per certo, i nostri colori. Certo, certo. Senti, Pierluigi, secondo te dà fastidio a uno come Gregucci, che insomma ha allenato ad alto livello, ha giocato ad alto livello, sentir parlare di miracolo Alessandria? A te darebbe fastidio, Piero? Ma no, perché Gregucci è uomo di mondo e quindi sa che queste etichette vengono affibbiate magari anche da chi non ha visto la partita, e poi comunque è un per ragione di comodo quasi. Sì, no, ma anche perché insomma non è per forza denigratorio miracolo, anzi è un modo per sottolinearne i meriti, perché vincere in 10 contro 11 contro una squadra fuori casa, contro una squadra di due categorie superiori. Io ieri però ho visto la partita, sono rimasto incantato. E quello che vorrei chiedere al mister è, al di là delle individualità che ci devono essere, la mentalità di questa squadra. Perché chi ha visto la partita sa che l'Alessandria è scesa in campo fin dai primi secondi di gara, sì, per andare a far gol. Cioè, sì. Una roba francamente impronosticabile, no? Perché cioè, è un tipo di approccio che non ti aspetteresti dalla squadra di due categorie superiori, che vuole chiudere subito la partita, e invece l'Alessandria ce l'ha avuta da subito. Poi si avrà anche rischiato di perdere, qualche occasione l'ha concessa, ma complessivamente è stata nettamente superiore. Sì, non dimentichiamo che è prima in classifica, Sì, certo. In campionato. Grazie per Luigi. Il problema è uno che quando non hai cosiddetto niente da perdere, alla fine poi devi essere pronto e maturo a leggere le situazioni. Partita di Team Cup Palermo. Anche lì siamo due categorie sotto e la palla centro ti dà opportunità di far gol, facciamo gol 1-0 e dopo 20 minuti c'è un'altra opportunità. Il Palermo rimane in inferiorità numerica perché è stato sanzionato a livello disciplinare Vasquez, e dopo due minuti fai il secondo gol, e quindi in quel momento la gara ti dice il peso psicologico cade sulla tua testa. La squadra capo deve essere pronta a saper leggere situazioni di vinciamo a Palermo 2-0, siamo in superiorità numerica ma mancano 70 minuti alla fine, e quindi calma e gesso abbiamo provato a giocare per fare il terzo, poi abbiamo rischiato, questo mi sembra evidente, però la squadra ha letture, ha coraggio, è in un buon momento di salute fisico, però fisico. io devo fare il mio lavoro, devo spegnere un attimino e resettare tutto oggi perché ho una partita impegnativa, uno scontro diretto a Reggio Emilia domenica prossima, e il mio infame ruolo è azzerare gli entusiasmi, e perché quando tu alzi l'asticella del tuo calcio, la porti un po' più in alto, fisiologicamente ti metti nel mirino dei tuoi avversari. Storia storicamente sempre fedele alla Juventus, no? Sì. Juventus alzava, sì. Vinceva sempre, vinceva. Quindi la Juventus non vinceva le partite, era pronta a domare ogni avversario, anche l'ultimo, che per andare sulle pagine, sulle cronache, qual era l'ultimo colpo di coda che poteva fare l'ultimo in classifica? Battere la Juventus. E loro si dovevano sempre attrezzare per essere a livello di maturità, di presenza in campo, sempre altamente performanti. Certo, mister, un'ultima cosa. Scusa, anche perché adesso non voglio portare sfiga, anzi, tanto in radio non si vede, tocca ferro. Questo tipo di avventura è chiaro che è bellissima, però è ovvio che è fisiologico che possa in qualche modo, no, creare appunto euforia, entusiasmi, anche forse un po' distrarre dalla realtà di un campionato che credo sia l'obiettivo fondamentale dell'Alessandria. Perché insomma è difficile pensare che Alessandria possa vincere la Coppa Italia, anche se è chiaro che ogni turno che viene fatto è come se fosse una coppa, perché certo, significa dal punto di vista dell'emozione qualcosa di enorme, però ecco, insomma, bisogna secondo me evitare questo tipo di effetto, e insomma il mister avrà da lavorare su questo, però dai problemi, per carità, ben vengano. Sì, è vero, è un altro, una parte, secondo me è un'altra problematica, è abbiamo derubato energie in campo ieri stamattina, ho fatto una conta, era un dissesto idrogeologico sotto il profilo dell'abilità e delle oggi veramente c'è stata una rovina, c'è stato il mio medico che ha detto guarda, hai dei problemini sotto il profilo del recupero, perché secondo me bisogna mangiarli a Chianciano Terme per 3-4 giorni perché hanno speso veramente tutto quello che avevano, gli ho detto no tutto, hanno speso di più. Sì. Senta, un'ultima cosa, la chiamasse la Lazio, sappiamo che lei è un vecchio cuore biancoceleste, un vecchio cuore dell'Aquila, è il sogno quello di allenare la Lazio? No, io penso che tutto poi tornerà, i cerchi tutti si chiudono. Io al di là di allenare, io penso di andare a finire la mia carriera professionale lavorando per qualcosa alla Lazio, il mio sogno sarebbe cercare di formare giovani calciatori presi per strada e a un certo momento della mia stagione della vita sedermi all'Olimpico e vedere questi ragazzini che sono cresciuti e che si fanno largo e valore in campo all'Olimpico, quello sarebbe il mio sogno, io lì chiuderei. Il calcio ha dato tantissimo a me, io vorrei restituire al calcio questi valori che mi ha dato e soprattutto anche i compensi in questa maniera, ridando al calcio un giovane calciatore performante cresciuto dal sottoscritto. Io direi anche un'altra cosa con sincerità, ho girato un po', ma i cofanetti dei ricordi più veri e più sinceri, è vero, io sono della Lazio. Sono quelli. Non l'ho mai negato. E quindi auguro a un mio collega che ammiro molto, Stefano Pioli, perché il momento è un po' delicato di serrare i ranghi, penso che sia un professionista esemplare, un ragazzo molto equilibrato, solo lui può tirar fuori la Lazio da questo momento. Grazie, mister. Ringrazio complimenti voi, ancora. Saluti a Luigi. Grazie Angelo Gregucci, intanto c'è Alessandro Marco Tulli, cuore biancoceleste, che è venuto a sentire l'intervista di Gregucci, aveva le lacrime, i lucciconi come dicono a Milano. Traffico. Perché mi batte il corazon, ho bisogno Alessandria, ho bisogno Alessandria, mamma, innamorato son. Tutti convocati. Convocati. sono soddisfatto, ma è difficile anche dire Inter A, Inter B, perché oggi giocavano tanti giocatori che hanno giocato anche due domeniche fa, quindi sono soddisfatto di tutti. Il fatto che tutti quando giocano riescono a rendere al massimo, e anche magari in ruoli dove magari non sono i propri, insomma, però riescono a fare bene, questo è positivo, è molto importante. Tutti si sentono coinvolti, quindi in questo momento non credo che faremo qualcosa, a meno che, come nel discorso di Montoya o qualche altro giocatore che magari che non gioca venga a chiedere, così, ecco, io spero che rimangano tutti, perché ho grande fiducia in tutti i giocatori. Beh, non sarebbe il caso di enfatizzare così tanto questo 3-0 dell'Inter sul Cagliari in Coppa Italia, però oggi è il giorno dell'uscita di Star Wars, settimo capitolo della saga, e quindi abbiamo un po' sbrodolato. Pierluigi Pardo, sai chi c'è in linea con noi? Sai chi c'è in linea? Pronto. Un sex symbol da Repubblica. Chi è? Sorrentino. È Sorrentino, non c'è alcun dubbio su questo. Ciao Andrea. Adesso ti ci metti anche tu, insomma. Sì, mi ci metto anch'io. Cioè, prima era un sex symbol di cui eravamo a conoscenza in pochi, perché c'era soltanto radio e carta stampata. Adesso dopo le grandi partecipazioni a Tiki Taka, certo, è chiaro che insomma, il mondo femminile si è accorto di lui, e a me fa piacere, insomma, al di là della sua assoluta fedeltà, una moglie splendida, una bambina bellissima, però è andato di fatto, quando uno è oggettivamente un sex symbol. Prima, guarda, io sono qui adesso negli studi media, c'era Luca Argentero, sì, insomma, cioè, siamo nella stessa categoria, no? Beh, bella lotta, è vero, siamo lì. Dopo arriverà una dalla Kamchatka oggi, visto gli effetti audio che arrivano, invece sei a Mediaset, ecco. Dopo dopo la borsa avremo un altro noto sex symbol, cioè Marco Belinazzo dal Sole 24 Ore, che ci racconterà tutto, come al solito, su Mr. B, sulla grana Platini, Blatter, eccetera. Tra l'altro, notizia di oggi: Platini non si presenterà, dicono i suoi legali, davanti al comitato etico, perché dicono che è tutto previsto, la sentenza è già stata scritta. Ma parliamo di Inter, Andrea Sorrentino. Vincere certamente aiuta a vincere, questa è una banalità. Non è il caso di enfatizzare la Coppa Italia, come dicevamo, il 3-0 al Cagliari, però l'Inter gioca il turnover come bere un bicchiere d'acqua. Ecco, ma davvero, Carlo, questo mi sembra il dato incredibile di questa Inter. Poi vedremo come finirà la stagione, ma non c'è mai stata nella storia dei nostri campionati una squadra così, che cambia sempre, lasciando inalterate poi le qualità del suo gioco, ma soprattutto gli equilibri e anche il prodotto finale e anche quello intermedio, cioè lo sviluppo del gioco, gli equilibri in campo, la tenuta difensiva, rimangono inalterati, e questa è la cosa particolarissima, che è come se Mancini stesse facendo un lunghissimo precampionato di esperimenti, ma nel frattempo è primissimo in classifica, ed è un'anomalia assoluta, sì, e vedremo, sì, dove arriva. Sì. Secondo me lui vuole continuare così, lui non la vuole trovare la squadra base, ma preferisce fare così, perché nel frattempo tiene tutti sulla corda, sì, tiene i giocatori tutti coinvolti nel progetto, ognuno ormai ha capito che prima o poi il suo turno arriverà comunque, perché sono stati già 22 i giocatori che sono partiti titolari almeno una volta, anzi 23 con Manai ieri, sì, mettiamoci pure la Coppa Italia, quindi siamo in presenza di un unicum nella, sì, è vero, dei, vero, nostri campionati. Vero, turnover spinto, qualcosa di rivoluzionario, stiamo esagerando di nuovo, Pardo? Però sulla musica di Star Wars tutto oggi è concesso. 800240024, anche agli ascoltatori. Spoiler, no, Si può fare un po' di spoiler su Star Wars, visto che sappiamo delle cose, o no, è vietato? No, perché... c'è una morte illustre, del, sì, nuovo Star Wars. No, lasciamo stare, dai, che poi roviniamo delle sorprese, ci menano, ci insultano, già ne prendiamo abbastanza. No, dicevo, qualcosa di rivoluzionario questa Inter, o esagero, Pierluigi? No, non esageri. Io penso che la partita di ieri confermi la tendenza, il trend, come dicono quelli bravi, il trend delle ultime partite, assolutamente positivo, perché l'Inter, da squadra che vinceva a fatica mille volte con grandi parate di Handanovic è diventata nelle ultime partite una squadra che vince bene, che vince con sempre col cinismo delle grandi squadre, ma lo fa anche con un'idea di gioco molto più precisa e molto più profonda. E la partita di ieri secondo me conferma questo, con in più l'aspetto del turnover che ha sottolineato Andrea. E poi insomma il valore del Cagliari è comunque ottimo, perché è una squadra di fascia altissima di Serie B, quindi è come secondo me grosso modo se avesse vinto in casa contro una medio piccola di Serie A come livello. Quindi è una vittoria molto, molto importante, che secondo me continua, è un'onda lunga. È un'onda lunga che la partita di ieri ha ulteriormente aumentato. No, ma poi come ti ho detto, vincere aiuta a vincere. Altro fronte, quello del Milan, ha parlato Mihajlovic alla vigilia della partita, ormai per i rossoneri determinante, sempre in Coppa Italia con la Sampdoria, dicendo sarà il Milan migliore, vogliamo tornare in alto, bla bla bla bla bla bla. Andrea, però mi sembra che guarda, poco di nuovo sul fronte occidentale rossonero. Molto di vecchio, perché a me sembra che il Milan paghi questo spaventoso caos interno. Io credo che tutto parta da lì, c'è una tale guerra tra bande all'interno del club che poi si riverbera per forza sulle sorti della squadra. Sono d'accordo. E quindi anche le scelte tecniche, le scelte degli allenatori, le scelte dei giocatori sono state più o meno tutte discutibili in questi anni, perché c'è qualcosa che non va all'interno. Ci sono infinite prove tutti i giorni. Poi quando un allenatore per la prima volta nella storia del Milan berlusconiano arriva a dire che Berlusconi è l'obiettivo e gli dà lui il permesso di parlare, quella è stata una frase di Mihajlovic che mi ha fatto pensare. Mihajlovic non è uno scemo, ovviamente, secondo me lui ha capito che ormai la cosa va a finire male e quindi si toglie qualche sfizio e qualche sassolino, un po' come faceva Leonardo in quell'anno in cui allenò Milan alla fine. Certo, ce lo ricordiamo bene, ce lo ricordiamo bene come finì con gli stracci che volavano. Andrea, ti ringrazio. A voi, a presto. Ciao Andrea Sorrentino. Un'ultima battuta con Pardo invece. Buona notizia, ottima notizia di oggi, di questi giorni. Verratti, miglior giocatore straniero della Ligue 1 dopo 3 anni di ininterrotto regno di Ibra. Sì, forse si erano anche un po' stancati di celebrare Ibra ogni anno, però premiare Ibra tutte le volte. Una crescita significativa. Io credo che il tema Verratti sia strettamente legato al tema Pirlo, ed è un discorso che riguarda le categorie di vecchio e di nuovo. È chiaro che Pirlo è un giocatore, è un totem imprescindibile, è un giocatore dal quale non vorresti mai separarti in chiave nazionale, perché sai quello che ti può dare dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista caratteriale. Però è evidente che questo elemento non può ostacolare ulteriormente la crescita e l'esplosione di un giocatore che per me è sempre stato clamorosamente forte proprio dal punto di vista della personalità. Delle volte Verratti rischia troppo, rischia la giocata davanti alla difesa, fa anche delle cose proprio che nascono da una sicurezza tecnica incredibile e da una personalità che lui ha. Quindi questo premio, questo riconoscimento, per quanto compara ovviamente i premi individuali, spero possa contribuire ad aumentare la sua autostima e la sua consapevolezza. Grazie Pier, sentiamo domani. Volevo dirti che forse ho qualche altro minuto. Ce l'hai? Per la gioia di De Luca, per collegarmi dalla Kamchatka, per cui aggiorniamo fra qualche minuto. Forse fantastico. Allora sentiamo la borsa, poi torniamo mentre sta per cominciare Roma-Spezia, Roma con diversi titolari. Ormai anche questo è un obiettivo importante per i giallorossi. Vedo sfilare i turbe. A proposito di turbe, c'è una voce secondo la quale potrebbe essere ceduto al Watford dei Pozzo per una cifra mica male, considerato il buco nell'acqua che questo giocatore sta combinando a Roma. 15 milioni più bonus. Borsa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. Oh, eccolo qui Marco Perinazzo, l'altro sex symbol. Io prima stavamo parlando di Andrea Sorrentino, ti avevo già annunciato, quindi è arrivato dal piano di sopra. Sì, ha fatto un lungo percorso per arrivare fino qui. No, volevo dare, giusto per rendere l'idea dell'importanza che per la Roma ha questa partita con lo Spezia, ottavi di finale di Coppa Italia, siamo al quinto minuto 0-0. non mi, anche qui vi aggiorno, ma non mi sembra il caso di enfatizzare. Comunque è indicativo il fatto che la Roma giochi con una formazione estremamente seria De Sanctis in porta, Maicon, Rudiger, Castan, che quindi si rivede, Emerson, Pjanic, Banker, Uchan, Iturbe, Dzeko e Salah. Questa la squadra giallorossa in campo ora. Luigi, provincia di Catania, subito è tornato anche Pierluigi Pardo. Per è tornato l'arrotino, sì, ecco una qua. Cinquina di minuti. Rispondiamo a questi due ascoltatori, Pierluigi. Poi vai. Parlo con Marco di Platini, di Mr. B. Non so se trovo qualcun altro con l'accento sulla I. Luigi, buongiorno. E allora, ti ho pizzicato proprio nel momento in cui dicevi che bene, la Roma battagliamo, andava fortissimo, battagliava, che era una squadra fortissima che andava. E ora proprio c'è la Roma che sta giocando con lo Spezia e che fa giocare la squadra titolare. Quando io ti dicevo che la Roma era una ciofeca di squadra, perché più o meno titolare, più o meno, perché Manolas, Florenzi, Nainggolan sono in panchina. Sì, sì. Quando tu dicevi che la Roma era fortissima, io ti dicevo che la Roma aspetta perché c'ha Torosidis, Manolas come difensore centrale, ti dicevo che le vere squadre si fanno con Cannavaro, Turam, con Baresi e Costa Curta, e tu mi hai dato torto. Averli? Non posso averti dato torto, Luigi. Non lo ricordo, sì, eh? Sì, gli hanno dato torto. Mentre ma non è vero, dicevo, ma che stai a dire? Sto scherzando. Cioè, voglio dire, è chiaro che io preferisco, è vero. Molto meglio Rudiger rispetto a Franco Baresi. No, a parte il fatto che Manolas, io continuo a pensare sia un buon centrale. Assolutamente. Poi manca un compagno di reparto all'altezza, Luigi, quindi è chiaro che preferisco avere, come direbbe Catalano, Baresi e Cannavaro ai tempi d'oro piuttosto che Rudiger e Torosidis, no? Questo mi sembra abbastanza evidente. O preferisci Rudiger e Torosidis, Pierluigi? No, no, ma Manolas è un buon centrale, direi, fra il buono e l'ottimo, quindi il problema è che secondo me è il migliore della difesa della Roma. Anche Florenzi è un buon giocatore quando gioca, anche Maicon, però Florenzi sappiamo che ormai è un adattato in tutti i ruoli, quindi può fare 50 cose diverse e questo qualche volta gli porta via delle energie. Per quanto riguarda Maicon, è un giocatore che è stato leggendario secondo me, stanno qualcosa di così all'Inter, ma oggi certamente ha una ormai fragilità, lo dico di numeri, per cui è un giocatore da diciamo fratilato, che è molto vicino all'ammazza caffè. Sicuramente. Per cui insomma su questo non ci sono grandi dubbi. No, ma io non credo adesso che la Roma sia completamente fuori da tutti i giochi e da tutti i giri. Penso, carta canta, con le registrazioni, così come dico, ho detto che il Napoli vincerà il campionato e non so se succederà, però ecco, contestavo diciamo la tesi di Crociani che all'inizio della stagione diceva che la Roma voleva soltanto perderlo questo campionato. Sì. Secondo me no, secondo me c'è una sopravvalutazione complessiva. La Roma è un'ottima squadra, è nel gruppo. Con dei difetti, di è un'ottima squadra con dei difetti, con dei difetti che sono piuttosto evidenti, che sono quelli che abbiamo grosso modo tratteggiato. Ha avuto anche le sfighe, perché poi il doppio infortunio simultanea di Gervinho e Salah è insomma pesante. Voi togliete alla Juve di Bala e Buffon, che ne so, oppure fate voi, insomma, le cose cambiano. Quindi io credo che dietro a quella pressione che c'è stata, essere evidente, c'è anche questo elemento. Ma la Roma magari si riprende, non la vedo fuori dai giochi, non la vedevo. Ha giocato una partita estremamente seria a Napoli, Marco Beninazzo. Roma ha giocato una partita che non era semplice da interpretare in quella maniera. Sì, ha sorpreso tutti, forse lo stesso Napoli che si è trovato una squadra arcigna e determinata. Appunto. Davanti, come non lo è mai stata in stagione, bravo. Forse come non lo era da alcuni anni, tranne in certi momenti, e ha condizionato molto un atteggiamento tattico di questo tipo, soprattutto visto che il Napoli è in una fase in cui non riesce più a tenere i ritmi che ha tenuto negli ultimi due mesi. Un po' stancucci, ragazzi. Sì, credo che sia stanchezza di tipo proprio mentale nel tenere un certo ritmo, perché poi il Napoli sono dei giocatori cruciali che in questo momento sono fatalmente un po' spremuti, quindi hanno bisogno delle vacanze. Infatti credo che vedi, le altre soste per quanto riguarda il Napoli hanno danneggiato, perché c'era la squadra era in ritmo. Questa arriva come una benedizione, secondo me. Pierluigi, ti devo salutare. Le soste per le grandi squadre. Come? Le soste per le grandi squadre, tranne appunto quella natalizia, sono sempre un'arma a doppio taglio, perché le grandi squadre sono piene di nazionali, per cui poi ci sono delle volte, ecco, Gervinho è uno che si è fatto male in nazionale, Higuaín si è fatto le trasferte intercontinentali, interplanetarie, certo. Quindi insomma le soste poi sai, non sono mai occasioni di riposo assoluto. Arriviamo a 45, dai, senza dai, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno Mandi. Allora, intanto il complimentone ancora ad Alessandria, anche ho visto in difesa giocavano benissimo, anticipavano veramente. Glielo leggevi in faccia, no? Chi ha giocato sa che quando vedi quelle facce lì non vinci, e glielo leggevi proprio in faccia. Allora, voglio dire due cose brevi. Intanto faccio fatica a comprendere come mai le squadre di B e di C giocano sempre in casa delle squadre di Serie A. Per regolamento? Come? Per regolamento. Sì, no, no, lo metto in dubbio, però certamente io non so quante persone c'erano per Milan Crotone, ma sicuramente se fosse a campi invertiti sarebbe un bello spot anche per lo stadio, secondo me. Ma vabbè, comunque regolamento. Sì, le grandi squadre non hanno voluto. Se volete vi dico una cosa in 20 secondi su questo. Ha perfettamente ragione, ed è un po' la filosofia dell'FA Cup. Sì. Diciamo che il regolamento che c'è, la formula che c'è negli ultimi 7-8 anni, tende a blindare la competizione per dare un appeal televisivo, Bellinasso ce lo confermerà, che rende la Coppa Italia un buon prodotto alla fine, un prodotto che costa credo intorno ai 15-20 milioni di euro di diritti televisivi, viene venduto assieme alla Supercoppa Italiana, ed è un prodotto che credo, di cui credo che la Rai sia contenta, perché sono poche partite, praticamente poche partite, però insomma poi con questa formula blindata tu arrivi quasi sempre ad avere dei bellissimi quarti di finale, delle splendide semifinali oltretutto in partita doppia e poi la finale, quindi viene fatta secondo me, non so se scientemente, ma insomma mi sembrerebbe abbastanza normale per agevolare le grandi squadre, cioè, poi si può discutere su questo. È evidente che è molto più bella come idea un'eventuale Alessandria-Genoa o Alessandria-Palermo o Alessandria-Roma, quello che sarà, piuttosto che il contrario, o Crotone-Milan. Crotone-Milan sarebbe stato uno spettacolo pazzesco, qualche anno fa abbiamo avuto Inter-Trapani, è stato il Trapani-Inter, che cosa sarebbe stato, no? Quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore, credo che il motivo sia quello. Sì, poi comunque c'è la suggestione della partita secca, che è comunque qualcosa di bello e sì, divertente. C'è stato l'elemento televisivo, come sottolineava Pier, c'è stata anche la volontà dei grandi club in qualche modo di avere di tutelarsi. Un percorso semplificato, sì. Ma io credo che invertendo i campi si potrebbe maggiormente valorizzare. Si potrebbe aggiungere qualcosa. Sì, ho la sensazione che forse siamo pronti, forse occorreva questa fase intermedia, però forse siamo pronti ad avere una Coppa Italia più incerta negli esiti, perché il prodotto ha dimostrato di poter essere valido. Si prepara per esempio un quarto di finale tra Napoli e Inter. Beh, c'è il derby di Torino stasera. C'è il derby di Torino, insomma sono belle sfide, ma anche a campi invertiti, secondo me, insomma, le squadre di vertice potrebbero ugualmente arrivare quasi tutte alla fine. Poi sarebbe bello avere l'Alessandria di turno che permette di sparigliare un po' le carte. Chiaro, e a me piacerebbe, ma questo so che è realizzabile dal punto di vista dei calendari, vedere come in Inghilterra il campionato fermarsi omaggiando la Coppa Italia e portandola nel weekend. Ma questa è una. Magari un turno solo. Magari un turno solo, ma credo che questa sia leggenda o fantasia. Siamo però è una bella idea questa. È una bella idea, si potrebbe, secondo me, volendo, si potrebbe anche fare. Magari proprio per questo turno, che è quello di finale. Sono poi i calendari sono talmente incasinati che solo a dirlo, cioè, sì, no, certo. ci sono quelli cui vengono i capelli ricci. Pierluigi, ti devo lasciare adesso perché sono le 44. Adesso sto cominciando anche a far rompere il caso. Non fammi sentire colpa. So che hai un impegno. Verissimo. Lasciamo anche lui è andato, ma con un quiz. Vediamo Roma-Spezia. Chi è il proprietario più ricco tra Roma e Spezia? Chi è? Un interrogativo. Lo lasciamo così. Ma Spezia è in vendita comunque, no? Beh, non diciamolo più perché. Ma in vendita o no? Beh, Volpi deciderà di procedere all'acquisto della Samp, come tutti gli chiedono di fare, come per il momento è stato, come dire, sospeso. Non credo che tenga due squadre. C'è un intero popolo di sandoriani che sono lì a pendere dalle tue labbra. Sì. No, la trattativa che viene negata, affermata, insomma, in realtà non è mai stata accantonata, c'è tuttora in corso, ma come sappiamo bene, purtroppo queste sono cose lunghe e complesse che richiedono che tutti i tasselli vadano al proprio posto, insomma, nel caso specifico Sampdoria, Spezia, ci sarebbe da sistemarne tanti di tasselli, e Volpi, che in questo momento ha delle priorità che sono i suoi affari in Africa, dove ci sono tensioni geopolitiche molto, molto importanti, considerando che lui fa i suoi affari nell'ambito petrolifero e la logistica prevalentemente tra Nigeria, Mozambico e Angola, insomma, non è che abbia proprio in cima alla lista. Sì, risponditi da solo: chi è più ricco tra il proprietario americano della Roma e il proprietario italianissimo? Magari stiamo assistendo, difficilissimo dirlo ovviamente perché non abbiamo le dichiarazioni dei redditi, però diciamo che oggi come oggi potremmo... È una bella partita. È una bella partita, e probabilmente forse quello della squadra di Serie B potrebbe essere più facoltoso di quello della squadra di Serie A. Attenzione. Ci fermiamo per il traffico. Torniamo subito con Marco Berinazzo. 800240024. Ovviamente i milanisti pendono dalle labbra di Berinazzo perché vogliono sapere se c'è qualche novità in quel gran casino di cui si diceva prima con Sorrentino, parole che peraltro condivido totalmente, perché il momento del Milan sul campo, secondo me, è figlio legittimo di questo casino societario. Proveremo a capire se qualche novità esiste dopo il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Ruggero dalla provincia di Cremona, un attimo solo, perché prima c'è Marco Berinazzo su novità, se ci sono novità sul fronte Milan, al di là del fatto che un magazziniere è stato pizzicato a portare via pantaloncini, tute, felpe e magliette. Prima ancora che guardare verso l'Oriente, forse bisognerebbe guardare nei magazzini, negli armadietti. No, vabbè, è sempre più complesso e si fa sempre più difficile anche interpretare le mosse delle parti. Continuo a seguire la vicenda da vicino, i consulenti di entrambe le parti continuano a dire che si va avanti a piccoli passi, che c'erano stati dei problemi sul fronte cinese poi superati, questo determinava un ulteriore rallentamento, poi il tutto è stato ufficializzato dalla quella nota dell'ANSA che ci rendeva edotti sullo scambio di auguri natalizi tra Berlusconi e Mr. B, con non ci ha fatto dormire un proposito, paio di notti, no? Sì, devo dire, ci ha raggelato il sangue. E, sì, soprattutto perché a questo punto davvero diventa difficile capire quello che sta avvenendo. Sicuramente ne sanno in questa fase più i tecnici e consulenti delle due parti che i rispettivi dominus, nel senso che poi quando si saranno messi a posto tutti i tasselli, si andrà da Berlusconi, da Mr. B, e poi dovranno ovviamente dare il loro assenso o meno, vedersi e finalmente decidere. Il problema è che anche dal punto di vista della comunicazione, nel momento in cui stabilisci che non vengono più fissate date dopo il 30 settembre, che non se ne riparlerà solo a cose fatte, anche lasciar trapelare queste cose in teoria rassicuranti come quelle di un, di un reciproco intento di portare a termine la trattativa, sembrano poi vengono colti come segnali di debolezza della trattativa stessa. Io so, e le cronache finanziarie ce l'hanno raccontato, che quando in particolare le aziende cinesi vogliono realizzare un affare, in particolare nel mondo del calcio, lo fanno e poi lo annunciano. È accaduto per il City, per il Manchester City, con City Capital e China Media Capital, che hanno acquistato il 13% del gruppo Football. Sono arrivati, non ci hanno messo poi moltissimo comprato a definire. La trattativa è stata lunga, 6 mesi, 7 mesi, ma non era trapelato nulla. Si sapeva di questo interesse del City su una squadra cinese o indiana, e poi invece il vero oggetto del contratto è stato questo, per volontà del governo cinese, come perdura la volontà del governo cinese di investire dopo la Spagna e l'Inghilterra anche in Italia, e si guarda al Milan in particolare. Quell'operazione tra l'altro del City ha anche ridato una credibilità alla quotazione di 480 milioni, perché la quotazione finale del Milan sarebbe 1 miliardo, il Football City è stato valutato 3 miliardi, e quindi Quindi ti sembra ragionevole? Mi sembra ragionevole soprattutto alla luce del fatto che, per esempio, si parlava anche di business plan e sviluppo orientale. Quando si parla di sviluppo del brand, no, di internazionalizzare, di penetrazione in Cina, si intendono anche cose abbastanza semplici da capire. Il governo cinese da un paio d'anni sta cercando di puntare sul calcio, no? Verrà reso obbligatorio nelle scuole il calcio, ci saranno 200 milioni di bambini cinesi impegnati in questo sport. Ora, il 5% di 200 milioni fa circa 10 milioni, 5% sarebbe la quota di mercato del Milan. Sì. Questi 10 milioni, se dovessero acquistare un kit Milan, mettiamo, certo, a 20 euro, certo, porterebbero nelle casse della società, insomma, dei bei soldini, parliamo di centinaia di milioni di euro, decine di milioni, chiaro, di euro, rispetto, chiaro, al Milan in questo momento ha fatturato 200 milioni. Quindi non è proprio fantascienza. Chiaramente queste cose le apprendiamo, cerchiamo di verificarle, e dopodiché questa trattativa non è che la stiamo conducendo noi giornalisti. No, no, siamo solo alla finestra, abbiamo la difficoltà capire se e quando succederà qualcosa. Per capire se le cose hanno una logica, e a me sembra che determinate cose ce l'abbiano, così come la quotazione, dopodiché dobbiamo aspettare. E io ripeto, questo silicidio di notizie e non notizie, anche questa telefonata natalizia, si poteva evitare, perché a quel punto, se si è scelto di stare zitti e di annunciare, si sta zitti fino in fondo, si sta zitti fino in fondo e si fa calare il silenzio. E poi, però è chiaro che è una vicenda talmente importante, talmente monitorata da così tanto tempo, che diventa anche un po' difficile, no? Questo è vero, vero, però a questo punto, sai, il fatto che sia passato tutto questo tempo dà ragione ai detrattori, a chi crede che sia una bolla di sapone, e vedremo alla fine chi avrà ragione. Insomma, non è una gara, insomma. Tanto 0-0 tra Pallotta e Volpi, 0-0 tra Roma e Spezia, Coppa Italia, minuto 23. Ruggero, provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la chiamata. Grazie per l'attesa, dica. Ho ascoltato le opinioni dei telespettatori che mi hanno preceduto. Radioascoltatori, sì. Volevo fare una considerazione sulla Roma, che secondo me è, tra virgolette, vittima della coerenza dell'allenatore, di Garcia, che l'anno scorso, da quando è arrivato a Roma, ha imposto il 4-3-3 e giustamente va avanti così perché ha i risultati. Ha avuto risultati il primo anno, questo è il, esatto, terzo. L'anno scorso sì, esatto. Volevo dire che secondo me la Roma potrebbe rendere meglio con un 4-3-1-2, con De Rossi davanti alla difesa, che comunque è un gioco che può fare, e visto, considerato che ha un po' meno dinamicità di qualche anno fa, per togliere la fase difensiva a Pjanic. Sì. Sì. Lasciando dietro a due attaccanti, Deco sicuramente, un altro, quello che ci sono, che sono tutti comunque bravi. Sì, sì, sì, questa può essere un'idea, ma poi aggiungo, Ruggero, che gli allenatori bravi, quelli intelligenti, sono anche quelli che modificano le loro convinzioni, ne sa qualcosa a Berinazzo con Sarri. Cioè, il dogmatismo estremo alla fine può non pagare. Beh, in questo momento stiamo anche vedendo una Serie A in cui domina l'opposto, cioè la massima flessibilità, la massima adattabilità, il camaleontismo di una, certo, squadra come l'Inter, che è riuscita, certo, non so se si può dire camaleontismo, forse un neologismo appena inventato, ma in ogni caso dà bene l'idea di una squadra che credo che sia davvero la prima volta nel calcio mondiale in cui si cambia modulo, uomini, e il rendimento resta, sì, ne stavamo resta parlando tale, prima, qualcosa è straordinario, quasi di rivoluzionario, sempre fatte le dovute proporzioni, certo, certo, però è qualcosa di nuovo che non si era ancora visto. Diciamo, no, così. Cambiare tutto come alla PlayStation per ogni partita e vincere sul campo non si era ancora visto, e va dato atto a Mancini, senti, insomma, di aver fatto una bellissima cosa. 2 minuti e 30, dimmi, sì, una cosa su Platini, sul governo del calcio. Platini, oggi, notizia di oggi, le gare hanno detto non si presenterà davanti al comitato etico perché la sentenza è già stata praticamente scritta. Beh, si parla da giorni di questa radiazione che dovrebbe colpire sia lui che Blatter. Vedremo se sarà tale. Immagino che poi si rivolgerà di nuovo al tribunale arbitrale dello sport di Losanna, che comunque ha già rigettato la prima istanza, quella contro la sospensione. Insomma, uno scenario che sembra già scritto per volontà politica degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Sì, dimmi una cosa, si era diffusa la voce, l'avrei anche letta, di un sotterraneo accordo: Platini, ti togli dalla corsa per la poltrona, della FIFA e te la potresti anche cavare portando avanti il nome di Infantino. Gli Stati Uniti sono molto pragmatici da questo punto di vista. Non so a quel punto se la scelta potrebbe ricadere su Infantino. A quel punto potrebbe essere candidato ideale per molti anche il principe Giordano. Hussein non fosse altro che quando ha perso la votazione contro Blatter è stato appoggiato proprio dagli Stati Uniti, oltre che dalla UEFA e dal Canada. Ma è chiaro che è un momento magmatico in cui nessuno prende posizione in maniera molto precisa, in attesa appunto di capire se Platini ci sarà o meno nella lista dei papabili nuovi numero uno del calcio mondiale. Sicuramente è una fase di transizione che è durata troppo, che non può continuare, dove gli equilibri geopolitici contano molto, le pressioni sono molte e io credo insomma che bisognerà leggere con molta attenzione quello che accadrà nei prossimi giorni, perché da questo dipenderà davvero il nuovo assetto del calcio mondiale, al di là del presidente della FIFA. Grazie Marco, alla prossima. C'è, ovviamente gli argomenti sarebbero molti altri, dal primo rosso di bilancio per il Napoli De Laurentiis, che però si è ridotto il compenso De Laurentiis da 5 milioni a 1 milione, ma avremo modo poi di analizzare, insomma ha contribuito alla spending review fa abbastanza ridere. Comunque 13 milioni di euro di passivo non mi sembra una gran cosa. Poi se De Laurentiis si riduce lo stipendio, penso che si possa fare. No? Ci sarebbe tanto da dire, diciamo soltanto che Napoli ha ancora 50 milioni in cassa. Non so cosa accadrà a gennaio, ma ci sono. Grazie a Marco Bellinazzo, ci fermiamo per il GR e torniamo subito dopo. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, oltre il turismo di massa, mete sempre più personalizzate. Di Anna Rita D'Ambrosio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Cronaca, Coppa Italia, ottavi di finale, Roma Spezia 0-0, siamo al 37esimo, al 32esimo, la Roma aveva trovato il gol del vantaggio con Dzeko, pescato da Ucian, ma in posizione irregolare, dunque il punteggio rimane, come dicono quelli bravi, a occhiali. Pietro Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, peccato che non sia più Pardo, perché io volevo parlare un attimo di Lazio, visto che lui sembrava un pochino più informato ultimamente, però volevo dire, siete contenti di Lotito adesso? Finalmente viene fuori quello che è effettivamente. Uno che non investe nulla, incassa 15 milioni all'anno per le sue aziende dai redditi della Lazio, paga 1,5 milioni all'anno dalla Salernitana, falsando gli altri campionati, come sponsor della Lazio non è sponsor da 10 anni. È un disastro, ha svuotato l'Olimpico, nessuno lo sopporta da nessuna parte. Ma magari non lo sopportano, Pietro, anche perché lui ha sempre adottato una sacrosanta politica nei confronti dei tifosi, cioè con loro non si scende a patti, non si danno soldi, chi vuole andare all'Olimpico a vedere la Lazio ci va. Io credo che questo ragionamento stia sotto il costante malcontento intorno allo titolo, ma anche quando le cose andavano molto meglio rispetto ad ora, perché comunque non mi venga a dire che Lotito non spende mai niente, non ha mai speso niente per la Lazio, perché De Vrij adesso è fuori, ma è una sfiga questa, ma è un eccellente difensore. Parolo e Candreva sono due giocatori che io vorrei in qualunque squadra. Pronto? Sì, sono qui. Allora, sì, siamo d'accordo, però la Lazio non ne ha nemmeno 11, non ha nessuno, non ha una punta, non ha un difensore centrale, doveva fare la Champions se non si è rinforzata, e i buoni se ne vogliono andare perché non hanno prospettive. E la prospettiva non ce l'ha nemmeno la Lazio, perché lei dice giustamente che ha fatto una giusta politica nei confronti di alcuni tifosi, ma forse erano quelle della Nord, gli altri 60.000 che non ce l'hanno più. è giusto per colpa sua, perché non ha prospettive. Una squadra che ha il bilancio dello Atletico Madrid. Scusi, ma la Lazio quale obiettivo dovrebbe avere? Glielo dico subito: l'incasso avuto dell'Atletico Madrid, eppure il piazzamento medio di Lotito in 10 anni è il 10º posto. L'Atletico Madrid ha vinto lo scudetto ed è arrivato, è quasi una Champions. Mi sembra che anche la Lazio abbia disputato stagioni da Champions. Quali? Due volte terze, perché una volta mancavano tutti quelli Secondo me la dimensione della Lazio è tra il terzo e il sesto, settimo posto. È una dimensione da stabile partecipazione alle coppe europee, dove peraltro si trova, dove ha passato il turno, nonostante un sacco di infortuni e un sacco di questioni diverse legate al pubblico, legate allo stadio, legate a questo costante malumore. Non dimentichiamo che c'è Felipe Anderson, che è un giocatore che l'anno scorso sembrava il nuovo Kakà e che quest'anno non sta producendo niente. Lei mi dice non spende niente Lotito. Milinkovic-Savic è un giocatore che è costato parecchio, non si è ancora probabilmente inserito nel migliore dei modi, questo è certo. C'è Klose, che poveretto ormai ha l'età della pensione e quindi fa quello che può, pur con mille acciacchi e mille infortuni. Insomma, io non ho mai condiviso questo malcontento nei confronti di Lotito. Abbiamo collegato Dario Ricci, cui tutti insieme vogliamo fare i complimenti per un premio prestigiosissimo che è andato a ritirare non proprio dietro l'angolo. Dario, dove sei? Ciao Carlo, ciao, grazie. Sono di ritorno da Abu Dhabi. Ieri si è svolta questa prima edizione del Sports Media Pearl Awards, di fatto gli Oscar del giornalismo sportivo mondiale del 2015, la prima edizione. Radio 4 ha vinto, e per questo l'applauso che molto gentilmente mi hai fatto lo subito con tutta la redazione. L'ha vinto Radio 24, squadra. Certamente, però l'ha vinto grazie a una cosa che hai realizzato tu, cioè un audio documentario. Sì, una puntata di Olimpia dedicata a un grandissimo dello sport, Rocky Marciano. A Rocky Marciano. Quest'anno erano 50 anni dall'ultimo combattimento contro Arcimus, l'ultima straordinaria vittoria di Marciano, che lo ricordiamo conquistò 49 vittorie in altrettanti incontri, 43 prima del limite. A questo racconto, insieme all'indimenticabile Rudy, Fabio Cantadori, a questa storia avevamo già dedicato in parte un racconto che avevamo poi riadattato e aggiornato, e con questo racconto ho deciso di partecipare a questo premio. A questo premio ci è valso questo che è un Oscar, sì, perché pensa, i lavori consegnati in questa prima edizione sono stati più di 724 da 83 paesi in 29 lingue diverse. Insomma, questo rende maggior merito a quanto hai portato a casa, Dario. Risentiremo questo lavoro che ti ha portato a questo premio prestigiosissimo? Sì, direi, come si dice in questi casi, a grande richiesta. Domenica lo riproponiamo. Perfetto. Perché è emozionante, è bello condividerlo con i tanti che stanno facendo festa con Radio 24 in queste ore. Ti aspettiamo, grazie Dario, complimenti ancora. Grazie a tutti voi. Ciao Dario Ricci. Oh, guarda, c'è il mio amico Leo Turrini. Pronto? Pronto? Allora vorrei subito dire una cosa. Posso prima farti sentire un tuo amico? Sì, però io prima volevo dire una cosa. Sfatiamo i falsi miti. Dario Ricci mi deve 50 euro dal mondiale in Brasile del 2014. Gli avranno dato anche sto premio a Dubai. Io sono molto felice per lui, per Radio 24. Ma Dario, ricordati degli amici, mi devi 50 euro. Se vuoi, libera, tieni la gente. Porta la moneta, come dicono a Milano. Tutti i fenomeni e vanno tutti a crocco. Breve, fammi ascoltare chi vuoi, va bene. Ecco. Un tuo amico? Luca Cordero di Montezemolo, carissimo presidente col ciuffo, sulla stagione della Ferrari, eccolo qui. Fammi sentire. Ma tanto diversa, sì, è cambiato il presidente, il team manager, però poi le persone. Sì, pilota, d'accordo, era già programmato, ma so, il pilota, sì. No, però una Ferrari che ha un bello spirito, una Ferrari che ha saputo lavorare bene, che ha raggiunto l'obiettivo di fare un campionato di avvicinamento e che adesso deve fare il salto più difficile, sperando che la Mercedes non continui a saltare in avanti. Questo era Montezemolo, mentre c'è un ascoltatore che dal trattore da Varese sul trattore avverte Leo Turrini che tra Pero e Cormano è tutto tranquillo. No, è tutto tranquillo. No, vorrei correggere l'ascoltatore. Dal trattore. Nelle vicinanze di Cormano c'è una coda provocata dalla presenza di un amico dell'avvocato Montezemolo al volante di un Alfa Romeo. Si tratta di Marchionne, perché questa nuova Alfa Giulia, ma chiedetelo un po' a Focus Economia, ma quando esce? Quando si può comprare? È ferma con Marchionne all'altezza di Cormano. Volevo rispondere a proposito della citazione dell'avvocato col ciuffo Montezemolo. Tutti sanno che io sono un orfano dell'avvocato. Che ci vogliamo fare? Avvocato Montezemolo, si ricordi degli amici, ormai anche Montezemolo ha 70 anni. Deve dei soldi anche lui, come Ricci? No, lui no, però lui voglio dire, purtroppo o per fortuna, è questione dei punti di vista, io dico purtroppo, l'era di Montezemolo a Maranello è finita, adesso abbiamo Sergione con Sensao Marchionne, il quale ci ha detto non più tardi di lunedì che l'anno prossimo alla prima gara bisogna vincere, che è il modo migliore per mettere in panico tutti quanti, subito tanta pressione addosso. Ma, ragazzi, io non lo so, questo Sergione avrà i suoi metodi, noi gli vogliamo bene, ha tenuto aperto lo stabilimento di Cassino e anche quello di Grugliasco, ma insomma si doveva ricordare che le ultime gare di questo 2015, come ci ha detto Montezemolo poco fa, peraltro c'era ancora la Mercedes davanti, quindi dire dobbiamo vincere la prima gara, insomma, ma prima metti sul mercato l'Alfa Giulia e poi dopo andiamo a vedere. C'è anche, insomma, no? C'è anche l'altra voce che conosci benissimo e di cui Montezemolo ha parlato. È Pardo. No, è c'è sempre Pardo. Non c'è Pardo. Pardo dove? Ma Pardo, scusa, non c'è mai Pardo, lo pagate per non fare nulla, Pardo. Esatto, lo tagliamo per non fare nulla. Pardo è come il padre della Bosca, l'Etruria. Non si capisce, cosa sta quanto Pardo? Dove sta Pardo? Perché non c'è aveva, mai Pardo? Ma no, ma c'era prima, ma c'era prima, poi aveva, ah, no, aspetta, doveva registrare. Spezia, Pardo, no, doveva registrare Verissimo. Partecipare alla registrazione di Verissimo. Parlo per i programmi di gossip adesso pure. Allora, Montezemolo sull'altra voce molto fantasiosa, secondo me molto affascinante, se vogliamo, del ritorno dell'Alfa Romeo in Formula. Ma ti ho appena detto che ferma Cormano, Marchionne non riesce a metterli in moto e tu insisti. Aspetta, ti faccio sentire sempre il tuo solito amico Montezemolo. Io sull'Alfa ho sentito tanti annunci in questi anni, commerciali e sportivi. Vediamo, non lo so, come italiano lo spero, bisogna poi vedere se a tutti questi annunci seguiranno poi dei fatti, questo non lo so, perché ripeto, in questi anni si è parlato tanto di Alfa, vediamo. Mi pare perfettamente allineato con Leo Turrini. Allora, senti, il discorso sull'Alfa è questo, a parte il progetto industriale, la Giulia che io scherzavo prima, ci auguriamo tutti che comunque davvero Alfa Romeo torni sul mercato con dei modelli vincenti e competitivi. Marchionne lunedì ha detto: io non escludo di riportare il brand Alfa in Formula 1. Allora, se uno prende la storia, dice una bellissima idea, no? Perché Alfa Romeo, Fangio, Farina, ci ricordiamo, poi ancora prima Enzo Ferrari cominciò con la scuderia facendo correre Alfa Romeo. A me vengono in mente Giacomelli e De Cesaris. Io ero pranzo sabato con Giacomelli, che ti saluta tantissimo, ti ascolta sempre. Mi ha detto: guarda, io ascolto sempre Genta, purtroppo c'è anche Pardo. Gli ho detto: cosa vuoi fare? Gli dico: Pardo lo pagano e poi non è mai lì in diretta. Ma comunque va bene. A parte i saluti di Giacomelli, la questione è questa: se uno dice io riporto l'Alfa in Formula 1, come? La riporti come fornitore di un motore? Di questo si parla. Però l'Alfa Romeo non ha più un reparto corse da anni. Certo. Chi lo farebbe questo motore? Qual è l'idea? Io non vorrei che si trattasse, per evocare il presidente col ciuffo, di una, come dire, una forma di renzismo, facciamo un annuncio, hai capito, una bella slide, e poi dopo fra qualche tempo ci penserà Marisoni a Focus 24 e dice che non era vero niente. Cioè un po' come lo stadio del Milan. Ma sì, Berlusconi, queste cose qui, Mr. B, prima vi ho ascoltato, chi c'era lì, Bellinazzo, no? Bellinazzo. Perché io vi seguo, Guido, ma vi seguo, e sono fermo sulla Piero Cormano, ma voglio dire, ma anche questa storia di Mr. B, Milan è come l'Alfa Romeo in Formula 1, no? Intanto si dice, poi forse si vedrà. Comunque, in sé, ripeto, si tratterebbe di una buonissima cosa. Io avrei anche un'ipotesi, che è questa, siccome in Formula 1, e sono serio, c'è tutto il problema, le power unit costano troppo, Todd Eccleston contestano Ferrari, Mercedes, Renault dicendo pretendete troppi soldi dai fornitori. Marchionne lunedì ha detto una cosa, questa sì sensata, sostenendo che si potrebbe ipotizzare che i costruttori realizzino power unit destinati ai piccoli team sotto costo, no? Sì. Con Eccleston che mette la differenza, e a quel punto tu potresti anche utilizzare un marchio tra virgolette subalterno, certo. Ecco, questo potrebbe anche essere il disegno, però la cosa fondamentale è che non sappiamo dove sia finito Pardo. È possibile che la Ferrari vinca in Australia? No, perché Pardo non c'è mai, l'ho detto, sta registrando verissimo, ma cosa registra verissimo, ma quello che ti dica è così, chi c'è verissimo, Barbara D'Urso, chi c'è, non lo so, chi c'è, la Toffanin, non lo so, ma cosa fate, Toffanin, ma voi siete giornalisti, è verissimo, bellissima trasmissione, ma non dice c'entra a me? Nulla né con Ginta né con Parra, voi siete delle star dell'informazione, della comunicazione, ma cosa? Perché lo dice, dice a me? Trovate anche voi sulla Piero Cormano, ma non è possibile, non è possibile. Insomma ragazzi, è ciascuno il suo, però ripeto, la domanda qual era? Può veramente la Ferrari battere la Mercedes a Melbourne fra 3 mesi e qualche giorno? Fammi questa domanda. Può la Ferrari battere la Mercedes a Melbourne fra 3 mesi e qualche giorno? 95% no, mi dispiace per Marchionne. Sono d'accordo con te, Leo. È la verità. Se noi guardiamo i dati dell'ultima stagione, i gran premi finali, purtroppo e comunque, anche se di poco, Hamilton e Rosberg sono ancora davanti. Quindi io non so se Sergione consensava Marchionne che viene fuori e dice non ci sono. Ma tra poco togliamo i veli sulla macchina nuova, tu saprai sicuramente tutto. La macchina vuoi sapere com'è? Sì, certo che vuoi saperlo. Allora, la macchina è rivoluzionaria, bellissima. La sospensione anteriore completamente rifatta, copiata pari pari della Mercedes. Sì. Perché prima noi avevamo un tipo di sospensione diversa, adesso l'abbiamo rifatta e abbiamo fatta esattamente come loro. Sì. Il retrotreno, il lato B, sembra quello di Belen. È molto più stretto. È una cosa che dovrebbe garantire. Non t'allargare, Non t'allargare. No, ma veramente, veramente, vedrai. Un'efficienza aerodinamica che è mancata da fare le ultime stagioni. La power unit viene completamente rifatto il basamento, quindi da questo punto di vista le aspettative sono altissime, perché effettivamente il progetto, almeno sulla carta, nasce molto bene. Però, come direbbe Pardo lì a Verissimo, noi non sappiamo cosa la Mercedes abbia in tasca, cioè non sappiamo se questi a loro volta hanno ancora un margine di sviluppo dato che partono davanti. Quindi io sono molto molto prudente e credo che Sergione con Seisao lì si sia un po' confuso tra la Giulia che non arriva e la Ferrari che deve arrivare, perché il prossimo campionato è lungo, 21 gare, 21 gare sono un'infinità. Allora dire dobbiamo vincere la prima, ma non è detto, sarebbe sufficiente anche vincere la terza, la ma quarta, no, ma poi che conta è la competitività in valore assoluto. Bravo. Poi vincere come fai a saperlo? Gente, tu sei veramente un fuoriclasse assoluto, perché mi capisci al volo, hai capito? Io sono come Celentano, confuso, fantastico, no? Mi attraversano i pensieri, la mente, dico qualche brandello di cosa, poi tu intervieni col decoder e metti tutto giù dritto. Bravo, molto bene, molto bene. Senti, volevo dire esattamente questo. Senti, rispondiamo insieme a un paio di ascoltatori, hai voglia? Sì. Giulio, provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno. Dico. Intanto l'ospite ferrarista è di una simpatia unica. Amorosa, io lo ascolto con un'attenzione, perché mi dà proprio gioia, mi dà prospettiva, eccetera eccetera. Capito? Urrini. Diffondi lo spirito natalizio nel mondo. La ringrazio di tutto cuore, e non è colpa mia se la sua versione femminile, cioè la Giulia dell'Alfa Romeo, non arriva sul mercato. Abbia pazienza, io non ci posso fare niente. Però sono curioso del retroteno della Ferrari nuova. Io da questa sera mi metto su Google a vedere immagini, se ci sono, perché. Ma non le vede ancora? Io le ho viste dal vivo, lei deve aspettare un po'. Ma se vuole un'idea, si prenda qualche video con Gisella, modella quella brasiliana. Ma cioè, non t'allargare, Turrini, dai, ma no, su. Sto parlando della aerodinamica, delle linee. Non sto facendo dei riferimenti, quelli di Fappardo, sempre un po' grevi, sessuali. No, io parlo proprio delle linee, delle traiettorie. Capito, Giulio? Voleva dire qualcos'altro? Sì. Sì, no, devo portare un contributo sull'Otito, che è un paragone, adesso andiamo da una parte all'altra. Io faccio parte di quei 35-40 mila che hanno smesso di seguire la Lazio. Premetto che sono contento del fatto che le curve non comandino più. Avevo un'avversione per quel meccanismo, anche per una questione mia personale, culturale, politica, quello che sia. Però il problema è che il sentiment dei tifosi della Lazio ormai sta sotto lo zero, perché abbiamo un presidente che indipendentemente si è comprato un difensore in più in meno, questi sono aspetti tecnici. Perché ricordatevi, noi abbiamo fatto le trasferte anche a Licata e non siamo andati in inferno per il gol dei Ferini, ma abbiamo bisogno di una persona a volte. Cioè, il sogno nostro è quello di avere una persona che a volte dà una motivazione, che dà la carica, che quando lo vedi allo stadio, insomma, dice: voi ragazzi, dai, diamoci da fare. Non voglio l'atteggiamento folclorico di alcuni presidenti, no, pur simpatici, che parlano romano, un po' sì, non... Però è un problema. Io ho capito dove vuole arrivare, cioè è un'altra cosa che si dice di Lotito, non è il physique du rôle, non è... parla molto bene latino, però non è esattamente un professore dell'Accademia della Crusca, non è particolarmente elegante, però non è questo il punto. Il punto è che Lotito sta sulle palle a molti per partito preso. Non so cosa ne pensa Turrini. Cosa vuoi? Hai detto bene tu, forse Lotito non parla romano ma parla latino, absit iniuria verbis, hai capito? In oxio vinces. Io poi sono lontano da Roma, non lo so, sono d'accordo con quello che ha detto l'amico di Latina, che è una buona cosa che nel calcio italiano comunque venga meno lo strapotere delle curve, certo, degli ultras, eccetera. E questo è stato il peccato originale di Lotito, lo sai, peccato originale, il grande merito di Lotito. Francamente non se ne poteva più. Dopo, sulla gestione del club non ti saprei dire, io sono molto amico di Pioli perché ha allenato dalle mie parti, tra Sassuolo, Modena, Bologna, capite dal mio accento che io non sono nato né a Courmayeur né a Pantelleria, e penso che sia un bravo allenatore. Certo, adesso Lazio si è messo in una situazione che ha fatto 2 punti in 7 partite, io sono interista, temo come una nemesi biblica che si risveglino proprio domenica. Però ripeto, semmai la questione che ci dobbiamo porre è: com'è possibile che uno come Lotito fosse, non so se lo sia ancora, diventato così influente a livello di questo, calcio federale? Questo sì. Ecco, questa è la domanda alla quale Pardo non risponde mai, perché va verissimo. Io, se ci fosse Pardo, gli farei queste domande. Ma quando chiamate, beh, guarda caso, Pardo è a trasmissione. Si dà alla macchia. Ma io non lo so, questo giovanotto, d'altronde tu lo sai. Guarda, mi viene quasi il sospetto che faccia apposta, sai? Ma lo fa apposta, ti ho già raccontato. Tu sai che Lewis Hamilton cominciò la sua carriera da bambino bussando alla porta di Ron Dennis in McLaren dicendo: ah, io ho il sogno di essere il nuovo Senna, eccetera. Pardo bussò alla porta del resort di Aldo Biscardi dicendo, da bambino, era un bambino, il piccolo Pardo disse: oh, io voglio essere il nuovo Biscardi, e ce l'ha fatta, e per questo non si fa mai beccare da me. Ma prima o poi confido nell'aiuto dell'amico Gio. Prima o poi lo becchi, no? Te lo garantì, gli facciamo una bella imboscata. Vabbè, intanto scusate, traffico, sempre rallentamenti all'altezza di Cormano, questa Alfa Giulia di Marchionne non si muove e Montezemolo lo gode da lontano su un drone, gode vedendo Marchionne fermo con l'Alfa Giulia. Leo, ti ringrazio come sempre, ti abbraccio forte. Grazie a te, so che non vai più in onda da domani perché inizi le feste di Natale molto prima, non dire sciocchezze. Quindi lo dico agli amici di Radio 24, ci si risente dopo la Befana, perché gente fa come i medici, sono qui, sono ragazzi, qui domani, domani alle 14, vai, dopo di vacanza a Natale, 7 settimane in estate, sì. Gente, ma tu sei un privilegiato, veramente, no? Caro gente, ma grazie. Io non lo so, gente. Vabbè. Grazie, un abbraccio, caro gente, sei l'Alberto Sordi di tutti noi, ciao. Io so, io voi non siete, il resto la sai, Marchese del Grillo. Ciao Leo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo con Nicola dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno dottore, complimenti, buongiorno, per la trasmissione, e approfitto per fare gli auguri a tutto lo staff di Radio 24, grazie, a tutti gli sportivi italiani, a tutti gli sportivi veramente con il cuore, con un grande fine e con un grande inizio poi nel 2016. Ne abbiamo bisogno. Per quanto riguarda una domanda, due domande, una per, sempre per quanto riguarda Napoli. Guarin, se possibile, come possibile rinforzo a Napoli a gennaio. Seconda domanda, siccome il signor Garcia si è appeso agli specchi incollandosi su quell'episodio che dobbiamo veramente, siccome critichiamo sempre gli arbitri e dobbiamo fare complimenti al guardialine che ha fischiato, ha tenuto il coraggio di alzare la bandierina un minuto prima che arrivava la palla, 30 secondi prima che arrivava la palla al signor De Rossi, e la Roma ha fatto, invece di dire che la Roma ha fatto la peggior partita negli ultimi, negli ultimi dieci anni, su questo fatto... non sono d'accordo, perché la Roma ha combattuto con le armi che possiede in questo momento. A proposito, 0-0 all'intervallo nella gara con lo Spezia, ha combattuto con le armi che possiede in questo momento. Ha giocato una partita, secondo me, di estrema serietà, chiaramente parcheggiando il pullman davanti alla porta. Quanto a Guarin, non saprei, però io credo che Napoli di un centrocampista avrebbe bisogno, anche perché Allan, grandissimo, e Jorginho mi sembrano un pochino spremuti. Torniamo a parlarne domani se volete. Grazie Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ciao. Abbiamo ancora Carlo per un'ultima domanda, se è pazienza un secondo. Carletto, Carletto. Ciao. Ciao.